Ci sono storie di un passato tanto remoto che lasciano un segno tanto profondo da venire dimenticate o scambiate per altre storie. Storie di un passato ben più recente che confondono chi cerca di riesumarne il passato remoto e si ritrova a suo maldauto a leggere storie meno remote e molto, molto meno gremite. Qui stiamo, come d'autunno sugli alberi le spoglie, raccontando un passato che il tempo raccoglie, cercando le stringhe di quel che ci volle per dare alle folle gremite il suo folle. Viva il re muschio, un po' donna e un po' maschio. Viva il sarcastico re col suo lascito. Onirico nano, rossiccio e robotico, gioca col logico nel mondo più illogico. Che confondono chi cerca di riesumarne in passato remoto e si ritrova a suo maldauto a leggere storie meno remote e molto, molto meno gremite. Qui stiamo, come d'autunno sugli alberi le spoglie, raccontando un passato che il tempo raccoglie, cercando le stringhe di quel che ci volle per dare alle folle gremite il suo folle. Viva il re muschio, un po' donna e un po' maschio. Viva il sarcastico re col suo lascito, onirico nano, rossiccio e robotico, gioca col logico nel mondo più illogico. Capitolo 5. Il rifugio sicuro. Il rifugio sicuro di Ben era piuttosto signorile, pur mantenendo lo stile putrido e fangoso del resto di Lamhecca. Ricavato scavando il tronco di quello che un tempo doveva essere un maestoso ontano, aveva le pareti ricoperte di una moquette naturale color verde acceso, e i mobili scolpiti nel vivo legno apparivano come delle graziose escrescenze del pavimento, anch'esso in legno. Era popolato dalla peggior feccia di Lamhecca, netturbini, personale sanitario e alcuni di quelli che danno ordini dalle impalcature che delimitano Porto Anziano. Ben condusse i suoi ospiti verso il tavolo nell'angolo più riservato del rifugio e li fece accomodare mentre lui andava al bancone a ordinare delle birre. Il barista lo guardò stranito e capì che a causa del suo unico gomito non avrebbe certo potuto portare 3 birre e 1 bicchiere di latte caldo da solo, quindi impietosito mise una cannuccia in ogni boccale e portò lui stesso le bevande al tavolo. Ben bevve un lungo sorso di birra e guardando fisso negli occhi mio padre disse: «Adesso dobbiamo solo aspettare che arrivi il capitano della Traversina, il veliero impermeabile più veloce d'Irlanda. È la nave ammiraglia della flotta del mio compare, quello che voi avete barbaramente ucciso. Per tutti da ora in poi voi siete mio cugino venuto da lontano. Cercate di non farvi scoprire se non volete fare una brutta fine». L'atmosfera nella stanza era serena e tranquilla, quasi eccessivamente. Di quelle situazioni dove ti senti fuori luogo per non essere abbastanza sereno e tranquillo e ti viene da chiederti se sei tu che sei pieno di problemi o sono le persone attorno a te ad essere emotivamente giulive. E propendi spesso per la seconda, perché alla fine sei fermamente convinto che se uno è così sereno e tranquillo in un posto come Lamhecca, in un tempo come questo, deve essere o stupido o un po' sadico. L'unica figura che stonava con l'ambiente caldo e paciarone era una sagoma nell'angolo della stanza, che sembrava osservare lo streamingo e altro da quando erano entrati. Fortunatamente era solo una sagoma di cartone che sponsorizzava una nuova bevanda dagli effetti anche un po' euforizzanti, che quella sera veniva distribuita a mo' di campione pubblicitario. Non certamente una minaccia, ma forse una spiegazione per la inutile, molesta e fuori luogo euforia dilagante. Erano appena arrivati i secchielli di birra al tavolo e ognuno stava per darci dentro con la sua cannuccia in pieno stile lamecchiano quando da dietro della sagoma spuntò un'altra sagoma, meno di cartone ma non per questo meno nell'angolo, che si cominciò ad avvicinare claudicante. Un brusio percorse i tavoli quando lo videro e acchiappando qualche frase qua e là lo streamingo si rese conto che era l'uomo che stavano aspettando. Da vicino il capitan O sembrava molto più grande che da lontano e questa cosa colpì molto la giovane macuta di Mitra, che sulle orme della vecchia sciama, dopo la magia della forza di gravità, con la quale riusciva a far cadere oggetti smettendo di tenerli in mano, stava studiando ora le tecniche occulte della prospettiva, che permettevano di ingrandire o rimpicciolire oggetti e persone solo allontanandosi o avvicinandosi. Era completamente nudo, ma dotato di una peluria lunga, liscia e ordinata, che gli cresceva uniforme sul corpo, coprendo le sue vergogne e dandogli un aspetto tenerissimo di orsacchiottone, con il quale ingannava e distraeva i suoi avversari. Il suo unico capo erano dei guanti da piedi, simili alle calze normali, ma adatti anche per afferrare oggetti. «Capitan O», lo chiamò altro O, tirando al contempo un'occhiata d'intesa ai suoi solidali. «Per favore, accetti un secchiello di birra». «Preferisco solo capitano, grazie, ma non posso che accettare il suo secchiello se me lo chiede così gentilmente». E detto questo, estrasse dai peli pubici una possente accetta con la quale spaccò il secchiello a metà, rovesciandone il contenuto sul pavimento. «Sublime, proprio come nei racconti, si sieda, ci allieti con qualche suo racconto avventuroso». Dopo esserselo fatto chiedere due volte, il peloso capitano iniziò un monologo estenuante, lungo, denso, confuso e sospettosamente inverosimile, nel quale raccontò ogni episodio della propria vita, dal proprio concepimento, che sosteneva di ricordarsi, alle guerre di indipendenza nel nord a cui aveva preso parte e di cui portava evidenti cicatrici nascoste dai peli. «È così che lasciai il Granducato di Brianza per venire qui a cercare pace e lasciarmi alle spalle il mondo crudele e umido del contrabbando di farro dalmata. Ma questa città non ti lascia stare. Ho dovuto fare la mia scelta di campo, come tutti. Sono riuscito a diventare ganzo, ho tradito, ucciso, coccolato, lisciato i miei peli ricci, rinunciato alla feta in polvere, rinunciato a me stesso. Ormai c'è solo la gerarchia, non si esce dal gioco. C'è solo una scelta, coi ganzi o con gli sfigati, fino a ritrovarci tutti, quelli che resistono fino ad arrivarci, a Porto Anziano». Sorseggiare birra da una cannuccia innescò una serie di riflessioni molto profonde in Dimitra, che ripensò alla sua vita fino a quel momento. Per lo più aveva dormito, ma nei rari momenti da sveglia, durante quell'assurda guerra, era comunque riuscita ad abbandonare sua madre a un destino già segnato, fuggire da It's Time for Men to Be la Puttana, innescando una guerra civile tra gli appoppo, uccidere un gentile individuo di alto lignaggio con biscotti all'acqua frizzante e rifugiarsi cosparsa di fango in questo strano posto di alto lignaggio. Si convinse che avrebbe dovuto dare una svolta alla sua vita e abbandonare la via del popolo amazzone indicatale da sua madre nel gergo. Si concesse un'ultima infame delazione, però, nella quale non solo svelò la loro vera identità e raccontò per filo e per segno la loro fuga, con dovizia di particolari impressionante per una ragazzina che aveva passato tutto il tempo a dormire sul bue gazzella, ma spifferò anche dell'omicidio del ganzo e, cosa apparentemente ininfluente, chiamò Ben con il suo vero nome, Altrow. Solo l'aver pronunciato quel nome fece piombare nel silenzio l'intero rifugio. Il barista, gentile quanto prudente con i suoi clienti, prese il suo fucile da sotto il bancone e lo strinse nei pugni delle mani temendo il peggio per il suo locale. I clienti di ogni tavolo si girarono tutti verso Altrow, scrutandolo con occhi sospettosi. Il capitan O, scaltro come una fatina, arraffò l'acconto che era già stato messo sul tavolo e puntò la sua pistola alle tempie di Altrow. «Mi aspettavo ben altro dal più famoso latitante di Lamhecca, ma il sangue non mente. Resti tra i più sfigati della città. Avanti, tu e quell'altro scherzo della natura, in piedi e gomiti dietro alla nuca». «Ehi tu», sbraitò il barista, «le mani non le meni qui dentro. Le meni non le mani, vai a farlo per strada. Sai bene che le leggi di Lamhecca prevedono che il rituale sia fatto tra la folla». «Le meni non le mani» era il nome dato alla trucida tradizione lamecchiana, il sacrificio di uno sfigato per trasformarne un altro in ganzo. Nel silenzio interrotto solo da questi pochi scambi, ogni piccolo rumore riecheggiava per tutti gli anfratti del rifugio sicuro. Nonostante questo, però, lo stropiccio del tabacco pressato dentro alla pipa e la successiva vampata del fiammifero sembrarono passare inosservati ai più. Dimitra cercava di assaporare per l'ultima volta il piacere di vedere le disgrazie provocate dalla sua infamia e per questo, non curandosi di nessun altro intorno a lei, seguì il capitan O e i suoi due ostaggi nel piazzale davanti al rifugio. Guardando lo striminto terrorizzato in mezzo a una folla che diventava sempre più folta, però, iniziò a sentire qualcosa che assomigliava a un cane che le rosicchiava lo stomaco, mentre calde lacrime scendevano sulle sue guance ricoperte di melma. Il senso di colpa significava che stava abbandonando per sempre la via dell'Amazzone. «Visto che nessun altro ganzo si è fatto avanti», iniziò a proclamare il capitan O, «sarò io a svolgere la cerimonia». «Uno così deforme e per giunta tradito da una bambina è troppo sfigato, non basta per ganzificare qualcuno», provenne da qualche anonimo tra la folla proprio mentre il capitan O estraeva il coltello da cerimonia consegnato ad ogni sfigato al termine della sua cerimonia di ganzificazione. Altrove per qualche istante sperò di essersela cavata anche questa volta, ma purtroppo la folla di La Mecca era troppo assetata di sangue sfigato per non pretendere il sacrificio. Un solo sfigato al mese poteva essere sacrificato per gansificarne un altro, e quindi l'uccisione di Altrove avrebbe salvato un altro sfigato da questa fine orrenda. «Sacrificali entrambi, mio peloso amico, e giustizia sarà fatta per il ganso da loro effervescentemente assassinato!» Questa voce rauca e vagamente ansiogena proveniva da una losca figura incappucciata, affacciata al balcone che dava sulla grande fangosa piazza. Una smorfia di terrore comparve tra la peluria facciale del Capitan O, che si inginocchiò non appena la vide. «Come desiderate, mia signora, sono al vostro comando!» In tutto questo trambusto, nessuno dei presenti sembrava essersi accorto della nebbia che si infittiva all'interno del rifugio sicuro. Quello che invece catturò l'attenzione di tutti fu la parabolica traiettoria di un pannolino che, traboccante di merda di neonato, finì in faccia alla losca figura sul balcone. Sfruttando l'effetto sorpresa e col batacchio al vento, il bimbo prodigio uscì nella nebbia con un triplo carpiato che si concluse con un calcio in faccia al Capitan O, il quale ne rimase solo tramortito, visto la morbidezza di quei piedini cicciottini, ma quel tanto che bastava per fargli perdere il controllo sui due sfigatissimi ostaggi. «Come osi interrompere la sacralità delle meni non le mani, stupido neonato!» Il barista si scagliò tossendo verso l'infante, pronto a fare fuoco con il suo fucile automatico. Prontamente però il neonato lanciò la spilla che teneva il pannolino verso il barista e gli trafisse il collo facendolo crollare a terra senza vita. «Così potrà dire cazzate così non potrà dire cazzate neanche da morto», fu il lapidario e composto commento. Subito dopo aver raccolto la pistola del capitano e aver dato a Dimitra il fucile automatico del barista, diede due boccate alla sua fumosissima pipa e si rivolse alla figura incappucciata, pronunciando parole che toccarono le corde di tutti i presenti. «Tutto questo è una follia. Con l'illusione di una società più salda e più sicura vi siete fatti prendere in giro. Sì, parlo ai ganzi e agli sfigati, a tutto l'abitanto di La Mecca. Parlo a voi ganzi che per essere divenuti tali avete sacrificato uno sfigato. Vi sentite a vostro agio nella vostra agiata condizione, non vi sentite responsabili di morti orribili perché è la legge di La Mecca che vi ha costretto a comportarvi così, la stessa legge che ora vi tutela. Parlo a voi sfigati che accettate una sorte incerta che vi costringerà a morire o a uccidere un vostro simile. Passate una vita guardando di sottecchi chi vi circonda e cercando l'occasione per fregare qualcuno o per sfuggire al trucido rito sacrificale. E in nome di che cosa? Di una legge scritta 1000 anni fa dall'allora popolo di La Mecca? Che cos'è La Mecca se non il popolo che la abita? Questi putridi camminamenti? I palazzi ammuffiti? Le acque maleodoranti? Vi siete fatti abbindolare da personaggi come quella che in questo momento si sta pulendo la mia merda dalla faccia. Guardatela, nessun lamecchiano vivente aveva mai visto la sua faccia prima d'ora. È tutta una ruga. E cosa ci fa fuori da Porto Anziano? Vi prende in giro per conservare un ordine che vi schiaccia e vi mette l'uno contro l'altro, in attesa che un altro incappucciato prenda il suo posto e vi giudichi dopo di lei dall'alto del suo balcone. Ora vi dico, basta sfigati, basta ganzi, che un lamecchiano unito insorgano e portino questo messaggio di uguaglianza per tutta Irlanda. Non appena finì di pronunciare questo accorato discorso, ebbe giusto il tempo di prendere la mira e uccidere la vecchia incappucciata prima di buttarsi tra i gomiti dello streamingo e tornare a essere un normalissimo maleodorante neonato. Quella che iniziò in quel preciso momento è quella che gli storici chiamano la sommossa degli sfiganzi o la rivolta dei ganzati. Ancora non sono concordi sul nome migliore con cui apostrofarla. Questo fu l'evento che diede una svolta al tremendo conflitto che imperversava ormai da anni nel continente d'Irlanda.